Ciao a tutto, a tutte e a tutti. Oggi è martedì e come ogni martedì è Autoru e Pillole, trasmissione di letture e riletture collettive ad alta voce. Anche questo martedì proseguiamo, come pensiamo di fare per tutto il mese di giugno, con la rassegna di Autoru che vivono, pensano e raccontano relazioni resistenti al cis-eteropatriarcato, in una parola queer. E prima di raccontarvi però quali saranno le letture di questa sera, che sapete in genere accompagniamo sempre con un po' di musica, come da tradizione vi lascio tutti i nostri contatti, che vi sono utili sicuramente per entrare in contatto con il nodo milanese di Nonna di Meno Milano e condividere le stanze e le lotte, ma anche se volete per mandarci suggerimenti, riflessioni, perché no? Qualche lettura o consigliarci qualche pezzo di musica da mandare in radio. Quindi, intanto la mail che potete usare per fare tutto questo, nonunadimenomilano@gmail.com. Vi ricordo che abbiamo anche un blog dove trovate tutte le puntate della radio in podcast, oltre che tutte le notizie, le informazioni relativi ai progetti che porta avanti Nonna di Meno Milano. L'indirizzo del blog è nonnadimenomilanoblog.wordpress.com. Ci trovate naturalmente su tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter. Abbiamo anche un canale Telegram, ovunque ci trovate come Nonna di Meno Milano, con un punto, un trattino, però insomma ci troverete. Infine vi lascio, come ogni diretta, i riferimenti del blog sorellanzacovid19.org, dove trovate tutti i riferimenti e numeri utili in pandemia e oltre, relativamente ai centri antiviolenza, ai consultori e alle consultorie, ai servizi di supporto psicologico, insomma, strumenti utili per resistere. Torniamo alla puntata di questa sera. Dicevamo, terza puntata sul tema del queer. Questa sera partiamo con Eve Sedgwick, Queer e Ora. Continuiamo con Jeanette Winterston, Frankenstein, una storia d'amore. Poi abbiamo Paul B. Preciado, Manifesto controsessuale, questa volta in italiano. Maggie Nelson, Gli Argonauti. Helen Husser, Xenofemminismo. E chiudiamo con Izzy Arziga, Diventare Cagna. Il tutto accompagnato dalla musica che meglio ci risuona con tutte queste letture. Io vi saluto e buon ascolto. Eve Sedgwick, Queer e Ora. Gli effetti del Natale. Che cosa è queer? Ecco delle riflessioni al riguardo. Ciò che è deprimente a proposito del periodo natalizio è che si tratta di un periodo durante il quale tutte le istituzioni parlano con una sola voce. La Chiesa dice ciò che dice la Chiesa, ma anche lo Stato dice la stessa cosa. Forse non lo dice nel linguaggio della teologia, per certi versi questo ha poca importanza, bensì nel linguaggio con cui si esprime lo Stato. Le vacanze istituzionali, la lunga interruzione scolastica, le emissioni di francobolli speciali e tutto il resto. Anche il linguaggio del commercio si inserisce perfettamente nel coro e dato che gli acquisti dei consumatori sono organizzati in maniera ancor più incalzante intorno alle ultime settimane dell'anno, il Dow Jones freme per l'atmosfera vacanziera degli americani. I media, dal canto loro, seguono trionfalmente le falangi del Natale. Riviste rigonfie di pubblicità mostrano in copertina tacchini succulenti, mentre per l'industria giornalistica ogni domanda ruota intorno al Natale. Gli ostaggi saranno liberati per Natale? Cosa hanno fatto a Natale quelle famiglie vittime dell'inondazione di quella strage? Intanto la coppia famiglia Natale diventa sempre più tautologica, man mano che le famiglie si costruiscono sempre più secondo un'immagine di festa reiterata all'infinito, essa stessa costruita a immagine della famiglia. Infine, non si tratta tanto della propaganda del cristianesimo, ma quanto della propaganda del Natale stesso. Tutti, religione, stato, capitale, ideologia, vita familiare, discorsi del potere e della legittimazione, si allineano l'uno all'altro in maniera perfetta una volta all'anno. E il monolite che ne risulta è una cosa che si può arrivare a contemplare con tristezza. Cosa succederebbe se la prassi fosse quella di attribuire maggior valore ai modi di fare in cui significati e istituzioni possono non collimare? Cosa succederebbe se le circostanze più preziose non fossero quelle in cui ogni cosa ha lo stesso significato? Pensate all'entità famiglia, uno spazio sociale compatto in cui devono allinearsi perfettamente tutti i dati seguenti: un cognome, una diade sessuale, un'unità giuridica basata su un matrimonio regolato dallo Stato, una rete di rapporti di consanguineità, un sistema di affetto e assistenza, una casa, un proscenio fra privato e pubblico, un'unità economica, retributiva e fiscale, il sito primario di consumo economico, il sito primario di consumo culturale, un meccanismo di produzione, cura ed educazione dei figli, un meccanismo di accumulo di beni materiali per varie generazioni, una routine quotidiana, un'unità in una comunità di culto, un luogo di formazione patriottica. E ovviamente l'elenco potrebbe continuare. Se considero la mia vita, capisco che, probabilmente come la maggior parte della gente, ho valorizzato e ho perseguito questi vari elementi dell'identità familiare in una gradazione molto diversa. Ad esempio, nessun ruolo al culto, un grande bisogno di rapporti di affetto. Ma ciò che ho perseguito con coerenza nella mia vita è l'interesse a non permettere che troppe di queste dimensioni si allineassero l'una all'altra contemporaneamente. Capisco che per me è stata un'intuizione decisiva riconoscere che la strategia più produttiva, dal punto di vista intellettuale ed emotivo, potesse consistere nel disarticolare, quando possibile, quegli elementi l'uno dell'altro, nello svincolarli, i legami di sangue, di legge, di convivenza, di privacy, di affetto e assistenza, dalla ferrea e unanime aderenza al sistema chiamato famiglia. Subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, ¿sí? Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. Y no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Solo di. Soy yo. Non mi sono accorto che Victor era entrato fino a quando non sono uscito dalla doccia. Mi ha passato un asciugamano, poi mi ha visto. Ha visto le cicatrici sotto il petto e io ho visto i suoi occhi scandagliarmi il corpo. mancava il pene. Poi una pausa, breve e lunga allo stesso tempo. «Sono trans», ho detto. «Mi sono fatto asportare il seno circa un anno fa. È un procedimento lungo, che richiede tempo. Sono magro, di costituzione snella, ma con le spalle larghe. Quando ero donna, a volte, mi legavo i capelli. Mi scambiavano per un ragazzo. A quei tempi erano lunghi fino alle spalle. Ora li tengo un po' più corti, ma li porto sempre raccolti. Alle donne piacciono. Gli piaccio io». Victor non ha detto niente, il che era strano e toccante per uno che sapeva sempre cosa dire. Sono rimasto immobile e mi sono lasciato guardare. Ho il pelo pubico folto, anche se il mio corpo è liscio e quasi glabro. E il testosterone non ha cambiato le cose. Anch'io l'ho guardato. Ho fissato la peluria sul petto che scendeva in una linea fino alla pancia. «Guarda quanta sabbia c'è qui», gli ho detto avvicinandomi per spazzarla via. Ha deglutito, mi ha preso l'asciugamano e se l'è legato attorno alla vita. «Pensavo che fossi un uomo», ha detto. «Lo sono, ma dal punto di vista anatomico sono anche una donna». «È così che ti percepisci?» «Sì, la doppiezza è la cosa più vicina al vero me». «Non ho mai conosciuto un trans. Non sei l'unico». Ha sorriso. «Non abbiamo appena detto che in futuro saremo in grado di scegliere i nostri corpi e anche di cambiarli? Pensa a te stesso come una persona in anticipo sui tempi». «Ma se arrivo sempre in ritardo agli appuntamenti», ho detto, e siamo scoppiati a ridere per alleviare la tensione. «Non appena usciti dal bagno, mi sbarazzerò di questo asciugamano e mi farò una doccia». L'asciugamano era sottile e rivelava più di quanto non nascondesse. Gli ho detto, «Ma perché mai?» «Vuoi toccarmi?» «Non sono gay», ha risposto. «So che è una situazione un po' confusa». Si è avvicinato, ha fatto scorrere le sue lunghe dita sulla mia fronte e sul mio naso. Mi ha aperto le labbra, strofinandomi i denti davanti. Mi ha abbassato il labbro inferiore, accarezzato la leggera peluria sul mento, indugiando poi là dove avrebbe dovuto esserci il pomo d'Adamo, scendendo nell'incavo della gola. Infine ha allargato la mano, cingendomi la clavicola tra il pollice e le altre dita, come se mi volesse scannerizzare. Con l'altra mano mi ha accarezzato il petto, soffermandosi sulle cicatrici che non lo intimidivano, come non lo intimidiva la loro bellezza in rilievo. Per me quelle cicatrici sono belle, sono un marchio di libertà. Quando le tasto di notte al buio, ricordo quello che ho fatto e mi rimetto a dormire. Mi ha toccato i capezzoli, che sono sempre stati sensibili, e dopo l'operazione lo sono diventati ancora di più. Ho il torace possente e liscio, modellato dal sollevamento pesi. Le iniezioni di testosterone hanno facilitato la costruzione del muscolo. Mi piace la superficie piena che sono diventato ora. Stavamo per baciarci, ma non ci siamo baciati. Con delicatezza mi ha fatto girare, in modo che gli dessi le spalle. Il suo corpo premeva sulla mia schiena, il suo respiro sul mio collo. Le sue mani esploravano le parti di me, il torace, i capezzoli, la gola. Sentivo la sua erezione che premeva sotto il sottile e ruvido salvietta di cotone. Si è chinato per baciarmi le spalle, è più alto di me. Mi dava baci delicati, come quelli che si danno sulla cima della testa. Poi, appoggiandosi ancora di più al mio corpo, ha fatto scorrere la mano tra le mie gambe e ha cominciato a massaggiarmi. «Sei bagnato?» ha detto. Il suo dito era dentro di me. «Questa è quella che è sempre stata. E questo?» Il clitoride si inturgidisce con il testosterone. «È sensibile?» «Il mio clitoride ha 8.000 terminazioni nervose, il tuo pene solo 4.000. «Sì, è molto sensibile». Lo ha preso tra l'indice e il pollice, mentre con il dito mi toccava dentro. «Ogni clitoride ha un'erezione, e se ne hai uno che misura 5 centimetri, l'erezione è più palese». «Aspetta». Mi sono girato per guardarlo. Ho sciolto il nodo dell'asciugamano e gli ho preso il pene tra le mani, baciandolo. Lo sentivo pulsare. «Cosa vuoi che ti faccia?» ha detto. «Cosa vuoi fare?» «Voglio scoparti». We'll be right back. raconterai la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélod. La porte est claquée, Joël est barré. Manifesto contrasessuale, Paul Preciado. Pratica terza, come far godere un dildo testa. Iterazione di un dildo sulla testa. Principio guida, la logica del dildo. Numero dei corpi o soggetti parlanti partecipanti, 3. Tecnologia, translazione. Trasferimento, citazione, ponte. Controsessuale, del dildo su una testa, ovvero dildo tettonica applicata alla testa. Materiali: un pennarello rosso, 75 ml d'acqua colorata rossa, non tossica, un rasoio elettrico. Durata totale 2 minuti e 5 secondi. Descrizione dell'esercizio. Tre corpi firmano un contratto controsessuale con lo scopo di familiarizzarsi con la pratica dell'iterazione del dildo sulla testa. L'esercizio verrà effettuato tante volte quanto è necessario, affinché tutti i corpi si pongano almeno una volta nella posizione di ricettacolo. Per prima cosa, due dei corpi rasano la testa del terzo corpo. L'operazione di trasferimento somatico si realizza grazie all'iterazione del dildo sulla superficie della testa rasata, disegnando un dildo sulla pelle con un pennarello rosso. Il corpo in posizione di ricettacolo ha in bocca 75 ml di acqua colorata rossa. È in piedi tra gli altri due corpi, che sfregano la testa dildo seguendo un ritmo regolare e facendo scorrere le mani dal basso verso l'alto. Operazione sega di un dildo testa. Ogni 40 secondi la testa dildo guarda il cielo e sputa acqua rossa. Gli altri due lavoranti vengono benedetti da una pioggia rossa. Nel giro di 2 minuti il corpo avrà sputato acqua rossa in 3 riprese. Subito dopo il terzo sputo, la testa dildo emetterà un grido acuto per simulare un violento orgasmo. L'esercizio, che inizierà ogni volta con la rasatura della testa, operazione taglio dei capelli, può durare più giorni. In questo periodo contrattuale i tre corpi subiranno ciascuno la rasatura e l'esercizio inizierà con l'iterazione del dildo sulla testa dell'uno o dell'altro. I corpi vincolati dal contratto impareranno a controllare l'esercizio del massaggio della testa e a dar prova di estrema tenacia per diventare esperti nell'arte di simulazione dell'orgasmo. Maggie Nelson, gli Argonauti. Un'amica e io decidiamo di pranzare all'aperto. Mi suggerisce di tatuarmi sulle nocche la parola difficile, come promemoria dei potenziali frutti di una simile messa in scena. Invece, le parole ti amo mi sono uscite di bocca come un singulto trasognato la prima volta che mi hai inculato con la faccia schiacciata sul pavimento di cemento del tuo pittoresco e umidiccio rifugio da scapolo. Tenevi Molloy sul comodino e una catasta di cazzi in una doccia buia che non usava nessuno. Può andare meglio di così? Che cosa ti piace? Mi avevi domandato ed eri rimasto ad aspettare una risposta. Dopo pranzo l'amica si offre di googlarti al posto mio. Vuole verificare se internet sarà in grado di rivelarci il pronome preferenziale da utilizzare per te, visto che, nonostante o proprio grazie al fatto che si passi a letto insieme ogni momento libero, non riesco a costringere me stessa a chiedertelo. Bisogna imparare a trovare riparo in vicoli ciechi grammaticali e a rilassarsi nel bel mezzo di una orgia di casi particolari. Bisogna imparare a tollerare l'esistenza di una casistica che superi il 2 nel momento preciso in cui si tenta di rappresentare una relazione. Non troppo tempo fa, l'amica è venuta a trovarci e ha preso una tazza per il caffè, una tazza donataci da mia madre. «Wow!» ha commentato. «Non ho mai visto niente di più eteronormativo in tutta la mia vita!» La fotografia sulla tazza ritrae la mia famiglia e me. Che cosa la rende l'essenza dell'eteronormatività? Che dire poi della mia gravidanza? Non è forse intrinsecamente eteronormativa? Quando sempre più queer avranno dei bambini, questa presunta opposizione si diluirà semplicemente. Ne sentirete la mancanza? Non avevamo pianificato di sposarci. La mattina del 3 novembre 2008, però, alla radio passarono le proiezioni sui risultati delle votazioni del giorno dopo. Cercammo su Google come sposarsi a Los Angeles. Dopo aver lasciato all'asilo il nostro piccolo fardello, partimmo alla volta del municipio di Norwalk, dove l'oracolo prometteva che il miracolo si sarebbe potuto compiere. Povero matrimonio! Eravamo in marcia per ucciderlo. Imperdonabile! O per rafforzarlo. Imperdonabile. Durante un'incursione al Pride del 2012 a Oakland, un gruppo di attivisti anti-assimilazionisti srotolò uno striscione. «Il capitalismo ci sta fottendo il queer!» Distribuirono anche un opuscolo. «Quel che è distruttivo per la società degli etero non potrà mai essere mercificato o spogliato della sua natura ribelle, lo sappiamo bene. Per questo noi non cediamo. Froci, favolosi, queer, lelle, ragazze trans e boy e genderqueer e tutte le possibili combinazioni e vie di mezzo, e anche chi è tutto il contrario di ogni altra cosa. Aspettiamo il nostro tempo, colpiamo qua e là, e immaginiamo un mondo dove tutti gli sfruttati del mondo potranno unirsi e attaccare. Vogliamo trovarti, compagno, se è quello che vuoi anche tu. Per l'annientamento totale del capitale, noi, brutte stronze, che manderanno a fare in culo le vostre merdate. Quell'incursione mi fece piacere. A questo mondo ci sono sicuramente parecchie merdate che si meritano di andare a fare in culo. La tua incapacità di vivere nella tua pelle stava raggiungendo l'apice. Il collo e la schiena ti pulsavano dolorosamente giorno e notte, visto che il tuo torace, e di conseguenza i tuoi polmoni, erano rimasti compressi per quasi 30 anni. «Voglio solo che tu ti senta libero!» ho esclamato. «Non riesci ancora a capire!» mi hai urlato di rimando. «Non mi sentirò mai libero come ti senti tu. Non mi sentirò mai a casa quanto te, nemmeno nella mia pelle. È così che stanno le cose, ed è così che staranno sempre. O forse, può essere, ma non trascinarmi sul fondo con te. Sapevamo che qualcosa, forse tutto, stava per rompersi. Speravamo non si trattasse di noi. Mi hai fatto leggere un saggio sulle bacce e sulle femme che conteneva questa frase. Essere femme significa portare onore laddove c'è sempre stata vergogna. Volevo, e lo voglio ancora adesso, portarti ogni dono vitale che sarei stata in grado di offrirti, e osservavo e continuo a osservare con rabbia e tormento, quando il mondo sia paziente, di gettare montagne di merda addosso a quelli di noi che intendono demolire, o che semplicemente non possono fare a meno di demolire, tutte quelle norme che hanno un disperato bisogno di essere demolite. 2011, l'estate del mutamento dei nostri corpi. Io incinta da 4 mesi, tu sotto T da 6. Ho pensato di scrivere una lettera a Iggy prima che nascesse. Scrivergli mi sembrava simile a dargli un nome, un atto d'amore, ma anche un atto di irrevocabile classificazione. Ora penso di poter dire che voglio che tu sappia che ti abbiamo creduto possibile. Mai certo, ma sempre possibile. Non in un momento qualsiasi, ma per parecchi mesi, persino anni, di tentativi, di attese, di invocazioni. In un amore a volte sicuro dei propri mezzi, a volte scosso dallo stupore e dal cambiamento, ma sempre votato allo sforzo di una comprensione sempre più profonda. Due animali umani, uno dei quali vive la benedetta condizione del non essere né maschio né femmina, mentre l'altra è femmina, più o meno. Hanno profondamente, tenacemente e selvaggiamente desiderato la tua esistenza. Xenofemminismo di Ellen Hester. Cos'è lo xenofemminismo? Lo xenofemminismo è una forma di femminismo tecnomaterialista, antinaturalista e abolizionista del genere. In questo capitolo delineerò brevemente ognuno di questi tre concetti usando il controverso manifesto di Firestone, La dialettica dei sessi, come riferimento ricorrente, pubblicato per la prima volta nel 1970. Il testo di Firestone dichiara che l'accumulazione di abilità umana per controllare l'ambiente che si estende alla corporeità sessuata e alla riproduzione biologica è un mezzo per realizzare il concepibile nel possibile. Il testo considera dunque la tecnologia, le famose tecnologie di riproduzione assistita, ma anche alcune forme di automazione domestica e informatizzata industriale, come il fulcro degli sforzi di trasformare le condizioni socio-biologiche oppressive. L'opera di Firestone adotta un approccio ambizioso, costruttivo e di ampio respiro per concepire un futuro più emancipatorio. Per queste ragioni ha influenzato profondamente l'immaginario xenofemminista. Tecnomaterialismo. Lo xenofemminismo è un tentativo di formulare una politica di genere radicale, adeguata a un'epoca di globalità, complessità e tecnologia. Una politica che veda la tecnologia come uno strumento per l'attivismo, cercando allo stesso tempo di affrontare una realtà contemporanea tratteggiata da cavi in fibra ottica, onde radio e microonde, eleodotti e gasdotti, rotte aeree di navigazione e l'inesorabile e simultanea esecuzione di milioni di protocolli di comunicazione a ogni millisecondo che passa. Lo xenofemminismo cerca di portare in primo piano gli elementi di interazione più evidentemente materiali delle culture mediante contemporanee e ricorre a delle concezioni recenti del digitale che ne evidenziano la bruta fisicità rispetto alle caratteristiche apparentemente più immateriali, cioè rispetto alla percezione culturale che informazione e materialità siano concettualmente distinte e che l'informazione sia in un certo senso più essenziale, più importante e più fondamentale della materialità. In altre parole, lo xenofemminismo cerca di ancorare quello che è stato spesso erroneamente caratterizzato come un flusso libero e incorporeo ai suoi requisiti infrastrutturali e alla persistente fisicità di chi lo utilizza e lo produce, comprese le persone che lavorando svolgono attività ripetitive e mal retribuite nelle catene di montaggio elettroniche di tutto il mondo. Il progetto xenofemminista non rifiuta la tecnologia o la scienza o il razionalismo, idee spesso considerate costrutti patriarcali, ma la considera tanto una parte dell'ordito e della trama delle nostre vite quotidiane, quanto una potenziale sfera di intervento attivista. Laboria Cubonics nutre un interesse critico per tecnologie che potrebbero sembrare banali, come gli elettrodomestici, ma anche per innovazioni di più alto profilo, capaci di agire da vettori per nuove utopie. I farmaci, la stampa 3D, il software open source, i sistemi di cyber security e l'automazione post-industriale. Se questi fenomeni possono essere usati per aumentare il controllo e il dominio sui corpi che lavorano, allo stesso modo rappresentano dei terreni fertili di possibilità per la sinistra femminista. Lo xenofemminismo è interessato a esplorare e usare queste affordance a proprio vantaggio. Vuole schierare strategicamente le tecnologie esistenti per riprogettare il mondo. Allo stesso tempo però lo xenofemminismo ammette che le tecnologie non sono affatto neutrali di per sé, ma vengono regolate e costituite dai rapporti sociali. Ciò riguarda anche le storie particolari della loro progettazione, le infrastrutture tecniche, politiche e culturali nelle quali emergono e gli squilibri in termini di accesso, fattore che in gran parte dipende dal carattere delle specifiche tecnologie in questione. Riserve di questo tipo sono comuni a molte teorie e molti approcci tecnofemministi. Perfino l'entusiastica visione di comunismo cibernetico esposta nella dialettica dei sessi mostra una certa consapevolezza dei limiti che il contesto sociale potrebbe porre alle implicazioni trasformative di una tecnologia. Firestone, per esempio, sembra cosciente del fatto che non solo il suo progetto utopistico è estremamente connesso allo sviluppo di capacità tecnoscientifiche adeguatamente evolute, ma che nelle mani della nostra attuale società e sotto il controllo degli scienziati attuali, qualunque tentativo di usare la tecnologia per liberare, non importa chi, è sospetto. Perfino i suoi strumenti preferiti di intervento femminista nella corporeità sono attentamente problematizzati. La tecnologia riproduttiva, compreso il controllo delle nascite, è descritta come una spada a doppio taglio. Immaginarla nelle mani degli attuali potenti è un incubo. Sebbene non sia certo famosa per la moderatezza delle sue argomentazioni, è evidente che Firestone sia sensibile al fatto che gli utilizzi delle tecnologie computazionali e biologiche dipenderanno in misura sempre maggiore dalle più ampie strutture in cui sono inserite. Nella sua risposta alla dialettica dei sessi, Sarah Franklin sottolinea che Firestone considerava la tecnologia sia un agente di degrado sociale e ambientale, sia un mezzo di salvezza da quello stesso degrado, ricordando continuamente a chi leggeva che la scienza e la tecnologia non avrebbero mai potuto raggiungere tali obiettivi senza un cambiamento sociale radicale che comprendesse un completo regendering del sapere scientifico. Nell'analisi di Firestone, la tecnologia è presentata al contempo come un fattore chiave e un sintomo, inseriti in un più ampio processo di evoluzione storica. Gli sviluppi tecnoscientifici vanno dunque visti nella loro fondamentale influenza sul cambiamento sociopolitico. Questa influenza però non è affatto unidirezionale. Tra tecnologie e rapporti sociali c'è una relazione complessa, mutualistica, dinamica e basata su un dialogo costante. I cambiamenti in un campo influiscono sull'evoluzione dell'altro, che a sua volta retroagisce con ulteriori sviluppi in un continuo processo di co-costituzione reciproca. La tecnologia è sociale quanto la società è tecnica. Teach me if you want. Diventare cagna di Zigar Ziga. Creature gender fucker. Non esistono due esperienze di femminilità o mascolinità che siano identiche. Il contesto e la percezione delle proprie trasformazioni sono, anche in questo caso, uniche. Alfredo, frocia mutante transgenere, mi dice sempre che ogni gay conosce i codici della mascolinità normativa e sa farsi passare per uomo eterosessuale quando ne ha bisogno. Da questo dipende la sua sopravvivenza. Ma nel suo caso gli indizi di identità femminile sono stati potenziati dalla cerchia di donne della sua famiglia nella sua remota infanzia. Sono nato negli anni 70 nelle Azzorre. All'epoca lì non si facevano ecografie alle donne incinte e non si sapeva il sesso dei neonati. Mia madre desiderava che fossi femmina, ne era convinta. Mi avrebbe chiamato Francisca, che era il nome di mia nonna. Quando sono nato e ha visto che ero un maschio biologico, non ha cambiato i suoi piani. Mi metteva fazzoletti in testa, gonnelline, e a volte lei e le mie zie mi chiamavano Francischita. Mi hanno detto troppo tardi che ero un maschio. Anche per Carmela la femminilità più teatrale fa parte della vita da quanto a memoria. Ricorda, di recente i miei mi hanno regalato un video Super 8 passato su DVD e mi sono resa conto che fin da piccola, da quando avevo 2 o 3 anni, ero già abbastanza troia e abbastanza vedette. Ero già come ero adesso, mi si vedeva continuamente mentre mi tiro sulla gonna, mi abbasso i pantaloni mentre ballo, guardo verso la macchina fotografica e i miei non mi sgridano né mi dicevano niente a riguardo. Ero molto principessina e molto femminile. Anche Pilar, Monica, Mariana e Laura durante l'infanzia hanno potuto sviluppare il loro lato da principesse senza doversi scontare con opposizioni esterne, ognuna a modo suo. Laura era la teppa del quartiere, andava sempre coi ragazzi, spettinata e tamarra, ma fantastica, nella sua femminilità. Helen viveva in campagna e la sua infanzia è trascorsa selvaggia, senza imposizioni estetiche. Vero racconta sempre che quando ha dovuto traslocare a casa di suo padre e della matrigna, il peso del genere imposto le è caduto addosso come un macigno. Da lei ci si aspettava che fosse mascolina, tranne quando si prendeva cura dei suoi fratellini minori. Nessuno rifiuta l'aiuto di una babysitter gratis, neanche se si tratta del figlio effeminato. Anche la solitudine doveva giocare un brutto tiro alla matrigna conservatrice di Vero. Spesso finivano insieme davanti alla televisione facendo esercizi di aerobica insieme, di nascosto dal padre. Di recente ho letto di Jazz nel blog di Mario, il mio genderfucker, letteralmente fonti genere, stadio di eterna transizione, negazione del binarismo estremo, per cui il corpo indeciso deve transitare da una delle due identità permesse all'altra, senza mai restare in mezzo. Jazz è una bambina transgender di 6 anni che sorride alla macchina fotografica vestita da hawaiana e adora le sirene, perché non hanno niente in mezzo alle gambe, per cui non possono essere discriminate. Accanto a lei lo sguardo triste di Cameron. Non sappiamo neanche come avrebbe voluto che la chiamassimo. Si è impiccata nel febbraio del 2008 in camera sua, con indosso una vestaglia, dopo che la madre le aveva detto che non avrebbe potuto vivere come una femmina fino a che non fosse stata maggiorenne. Mancavano 8 anni e deve aver pensato che non sarebbe riuscita a sopportare così lungo la situazione. La differenza tra una vita degna di essere vissuta e una soluzione disperata piena di solitudine, riflette Maru, e sa bene di cosa sta parlando. Perché secondo me l'unico problema reale legato alla mascolinità e alla femminilità è che ci vengono imposte. Diventano un obiettivo che boicotterà per tutta la vita il fluire delle nostre mutazioni continue, delle nostre identità in continua ricostruzione. I sistemi di controllo per adeguarci al genere considerato adeguato sono numerosi e costanti. Dall'imposizione di un determinato tipo di abbigliamento fino alla somministrazione di ormoni e alla mutazione genitale dei neonati diagnosticati intersessuali, applicando il protocollo Money, ovvero gli aspetti più discutibili dell'impegno brutale dedicato alla produzione di donne e uomini a tutti i costi. I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow. Back bend until I touch my toes. I don't wanna roll